Signori e signori, benvenuti a Interferenze. Questa è la nostra terza puntata. Però ragazzi, non c'è niente da star tranquilli, perché ho da darvi una brutta notizia. Gente, le fate sono morte. Ci siamo inventati un piano di fuga per fotter le stelle e giorni a lei. Ci siamo giocati l'estate, gli inverni sui muri, i nostri discorsi compiuti. Tra silenzi e ricordi di quel parcheggio, quelle stelle sono affogate tutte. Per combattere l'acne con Billy e miele, perdendo il bisogno che ho di me. Ma la verità che tutto nasce e muore nell'ipocrisia del nostro non amore. Annegherò guardandoti negli occhi ciò che galleggiano. Sempre sai, respira. Ma adesso glielo spieghi. No, tranquillo. Adesso glielo... Sì, ho capito, dai, non potete menarmela. Sono in onda, dai, devo andare. No, scusate ragazzi, volevo specificare una cosa. Cioè, non è che le fate sono morte in realtà, perché cioè, ci sono ancora, capito? È solo che ho qui due ospiti che fanno parte del gruppo che si chiama Le Fate Sono Morte, avete capito? Ciao Andrea e ciao Federico. Ciao. Bella. Benvenuti in questa gabbia di matti. Cioè, siamo contenti, non potevamo essere altrove. È un piacere, è un piacere. Allora, avete fatto un pezzo. Dici tutto. Sì, certo, serialmente. Serialmente. Perché serialmente? Perché serialmente sono ingestibile. No, perché praticamente c'è una storia sotto. Ogni canzone ha la sua storia. Serialmente perché le cose si susseguono in modo seriale. Okay. C'è stato un periodo che mi si veniva a dire sempre le stesse cose e detto, direi... serialmente ingestibile, visto che mi si diceva sempre che era ingestibile. Io da lì è nato. Da lì è nato. Aspettavo serialmente qualcosa un po' più di cruento, capito? No, no, no, tipo, no. Cioè, il sangue non ce n'è. Peccato, il sangue ce n'è ben poco. A parte gli scherzi, no, bello che tanto. No, ma guarda, ti dico, solitamente sono dell'idea che le canzoni migliori nascono per gioie e dolore. Quindi se tu hai scritto questo tipo di canzone è perché è passato un vissuto che ti ha portato di merda. Ma cioè, guarda, ben venga. Sì, sì, sì, sì, assolutamente, questo... perché tu per apprezzare le cose belle devi anche passare dalle brutte. Certo, io me le creo apposta per scrivere. Il dolore fa bene all'arte. Spiegagli qualcosa, però cioè, certo. Magari esagera anche un po', così, capito? Ma perché sto cercando di diventare famoso. Allora sto tutto in favore della musica, va tutto in favore. La mia vita è proprio nella musica, allora... Tu tendenzialmente lo dici. Mi faccio del male per scrivere di più. Abbiamo ancora il numero del nostro neuropsichiatra che secondo me potrebbe dargli una mano. Comunque, volevo dirvi una domanda che mi ha frullato in testa quando ho letto il palinsesto della vostra intervista è stata: aiuto. Ma di che cosa sono morte ste fate? Prima me lo sono chiesto, cioè comunque sì. Le fate sono morte quando scopri che era tutto finto. In realtà bella questa metafora. Era bella. Non vedevi la tua realtà, ma vedevi una funzione, una specie di Matrix. Bello. Quando scegli di prendere la pillola, adesso non so, rossa, sì, era rossa, se blu, verde, vabbè, sì. Una pillola. C'era anche una canna in giro, però. Quel giorno mi ricordo cosa ho preso. Mi sa che ci sono rimasto sotto. E niente, poi scopri la realtà dei fatti, della vita, e capisci che non è tutto così finto, come non è, no. E quindi le fate sono morte, tutto sommato. Allora, tutto sommato, un po' me l'ero aspettata una risposta del genere. Però mi fa piacere, proprio perché spesso e volentieri, quando magari si parla con gruppi che trattano il vostro genere musicale, si crede che queste persone qua non abbiano una morale, o comunque sia una filosofia di vita dietro. Pensano che facciano musica, sì, così, tanto per. Invece questa risposta è molto bella, è molto bella. Un giorno ho litigato con un tizio di una webzine, praticamente ha recensito il nostro CD dicendo che eravamo una copia di magari After Hour, cose così, pensando che comunque uno che scrive, indipendentemente se non è degli After Hour o dei Verdena, non può scriverlo o scrivere dei pezzi del genere perché non ha un nome, perché le sensazioni di uno che non è famoso non sono reali, insomma. Questa è una delle cazzate. Infatti io l'ho scritto e ho detto sono un gran coglione. No, sinceramente. Io parto dal presupposto che tutte quelle cose che vengono fatte per passione sono quelle fatte meglio. Poi, se ti dovesse capitare anche di guadagnarci, ben venga. Sempre meglio, certo. Okay. Però se lo fai per passione, come lo spazio anteprima, che penso voi più o meno conosciate già. Sì, sì. Qua tutti non recepiscono una lira, lo fanno solo per passione. Le cose escono bene. Proprio per questo motivo. Sì. E a livello artistico, dappertutto, se una persona lo fa così, vai tranquillo che il successo è garantito. Personalmente. Speriamo. Ok. Certo. Ok, è già molto, sì, sì, sì. È già molto. Ma c'è un pezzo a cui siete particolarmente legati? Le fate sono morte, direi, perché è il primo pezzo che ho scritto con questa formazione, che vabbè, già suonavo negli anni scorsi. E ha dato il nome al gruppo e poi è stato proprio il precursore di tutto il genere che ci stiamo creando, il nostro stile, insomma. Ok, in quanti siete nel gruppo? Siamo in quattro. Tu sei la voce? Voce, chitarra, okay. Federico, chitarra, seconde voci, Stefano al basso e Giuseppe alla batteria. È sempre stata questa la vostra formazione? No, oppure... siamo... È cambiata negli anni. Abbiamo iniziato io e Giuseppe alla batteria, okay. E abbiamo suonato un po' insieme, anche senza gli altri elementi. Ha creduto il mio progetto, che adesso è il nostro progetto. Abbiamo trovato un mio amico che era un bassista, Diego, poi Michele alla chitarra. Negli anni Diego è uscito, è arrivato Stefano al basso e Michele è uscito, è arrivato Federico da qualche settimana. Ah, quindi è una cosa proprio fresca, sì, fresca. Da poco. Ma che metodo hai usato? Cioè, cosa gli hai detto per fare in modo che loro potessero apprezzare il tuo progetto e ne fossero appunto poi artefici come te, no? Sì, sì. Beh, incontrato Giuseppe per caso, nel senso eravamo... avevamo qualche conoscenza in comune, poi me l'hanno suggerito, ho cercato su internet il suo gruppo, come suonava, ho detto sì, i gusti sono quelli, potrebbe andare. Abbiamo provato, ci siamo trovati bene, ha creduto in quello che facevo e niente, siamo cresciuti insieme anche musicalmente negli ultimi 3 anni. Lui si è messo anche a scrivere. Ha scritto un libro che è uscito per una casa editrice, quindi comunque sono persone tutte che hanno una certa sensibilità, un certo modo di vedere le cose, di sentire. Adesso io ti faccio questa domanda: che genere di musica suonate? Ma siamo partiti con anni fa un grunge rock, se posso dire è il nostro genere. Un genere nostro, appunto, ma creato da noi. È bella, bella aggressiva comunque la musica. Sì, certo. C'ha varie influenze, logicamente si può dire comunque che non ci sia grunge, però non lo chiamo grunge. Io vi ho fatto questa domanda solo per un motivo, per collegarmi esattamente a quello che ha detto lui prima. Cioè lui ha detto, c'è un nostro collaboratore che suona con noi che ha scritto un libro. Sono tutte persone sensibili. Bello. Sì, sì, per forza. Capisci? No, non è... Cioè io direi a tutte quelle persone come hai citato tu prima, scusami, mi ha guardato malissimo il regista, quindi sono dovuto rientrare in sede. Come dicevi prima, il giornalista che ha scritto quelle cose, o magari anche tutti quegli altri che tendono a generalizzare su gruppi che suonano questo tipo di musica, io direi che invece sarebbe interessante se potessero dedicarvi un po' di tempo in più, fermandosi magari a bersi una birra insieme, e ci si renderebbe conto di che persone siete. Capito? Invece di partire per partito preso, no, zero, questi qua, cazzo. Cioè, inizio, prendo la chitarra, 2-3 strimpelli, mi fumano quattro cannoni, sono tutti storti. C'è sempre una personalità diversa. Vero? Da scoprire. Avete voglia di farmi Le fate sono morte? Impegnativa? Questa sì. Bella, fatemela allora. C'è un cambio di chitarra adesso, ragazzi, perché la preparazione, abbiamo i tecnici in studio che stanno lavorando per noi. Signori, welcome to to Interference, Le fate sono morte, con Le fate sono morte. Novità, non vi assomiglio affatto, scosso il tuo disdegno, senti il mio distacco, sanguina l'anima provata, con le tue mani sporche, le fate sono morte, le fate sono morte, mentre tutto sembra così fragile, mentre tu mi osservi con le tue lacrime, mentre tutto sembra così fragile, mentre tu mi osservi con le tue lacrime. Bravi ragazzi, ho una domanda da farvi. Quali sono le vostre prossime date? Bella domanda. Allora, lo sappiamo. Le nostre prossime date, da appunto qua, spaziante prima. Scusami, ti interrompo subito. Voi che state ascoltando, cioè dico a te che sei dietro un PC, invece di guardare YouPorn, ascolta le cose che ti sto dicendo e vedi venire qua sabato prossimo, capito? Se no ti vengo a prendere a casa, chiaro? Se sei donna, meglio. Se sei donna, meglio. Meglio. Buon gustaio. Porta YouPorn. Ce lo guardiamo insieme. Ok, poi? Poi 24 di giugno a Billard Café di Busto Arsizio. Assolutamente. Ok. E poi speriamo di averne altre. Poi stanno arrivando un po' di date. Working La progress. Cosa positiva è che stiamo cercando di prendere solo fuori. Okay. Fuori da Lombardia, dalla provincia di Varese, ecco. Comunque è interessante, sì. È un modo per farsi conoscere anche da un'altra realtà. No, ci stanno chiamando loro, poi ancora meglio. Ultimamente siamo contenti di questo. Ti dà una soddisfazione grandiosa, sì, il fatto che altre persone ti vengano a cercare. Sì, soprattutto non riuscire, cioè far fatica a suonare nei posti dove ci sono tanti gruppi che suonano sempre, continuamente, per una specie di mafia, diciamo, classico, e non riuscire a trovare spazi in quei posti, però riuscire a trovarli in posti migliori e lontano da, diciamo, dalla nostra provincia. È una bella soddisfazione. Direi proprio di sì, direi. Ma adesso partiremo con quella rubrica che tutte le persone, tutti gli artisti che vengono qua a Interferenze hanno timore. Le domande pazze. State attenti perché su queste domande, capito? Dovete rispondere in maniera attenta perché sono cultura generale, quindi occhio. Ah, yeah. Allora, bella. Parto con la prima domanda. Con quali di questi gruppi vi identificate di più? I Pooh, i Cugini di Campagna, i Power Rangers o le Winx? Io i Pooh. Dici Pooh. Anche se vorrei stare con le Winx. La scelta è difficile. Scelta difficile per i Cugini di Campagna. Devo dire che ci assomigliano molto, anche di aspetto fisico. Guarda, io in realtà è la prima cosa che ho pensato appena vi ho visti entrare. Ho detto, cazzo, ma questi sono i Cugini di Campagna. Visto, tutto collegato. Passo alla seconda. Questa qui è un po' più biblica, quindi occhio. Perché Mosè divise le acque? Attenzione qua. Perché c'era tanta gente a cena? Bella domanda, cioè bella risposta questa, bella. O non aveva di meglio da fare. Ma la risposta corretta è perché c'era chi la voleva naturale e chi frizzante. Ah, okay. Cioè, ragazzi, cioè, dire, i gusti sono gusti, dai. Passo alla prossima. Vai. Allora, perché invece di chiamarvi le fate sono morte, non avete pensato magari di chiamarvi i Pikachu o le costine alla brace? Perché io ho pensato ad altri nomi. Io ho sempre amato i ragni nel buco o le patate al forno. Loro non volevano, allora abbiamo scelto le fate sono morte. È ancora valido il numero del neuropsichiatra di prima? Perché hai capito perché abbiamo scelto le fate sono morte? Sì, ho capito, ho capito. E la cosa mi inquieta. Cerebralmente morti. La prossima domanda. Allora, questa è un po' più complicata, attenzione. Se un giorno vi dovesse arrivare una lettera, mi sa che è già arrivata. Sia quel giorno e quella lettera. Ascolta, non parlo delle multe, lascia perdere. Okay. Allora, se un giorno dovesse arrivare una lettera con scritto: ragazzi, mi piacete un casino, cioè il vostro sound è proprio carismatico, io vorrei suonare con voi, firmato Pupo, cosa gli direste? Assolutamente sì. Non me l'aspettavo, sai. Sì, sì, no, no. Beh, ma guarda, io tutto ciò che mi potrebbe dare un seguito, una visibilità, a me va più che bene. Bella, anche eh? Se non è il nostro genere, ma si può sistemare. C'è con Pupo, eh. Avete capito bene quello che ho detto? Cioè, c'è nato il principe e non ci posso andare io. Mi avete fatto ricordare una cosa bruttissima. Guardate, è nato a Sanremo il principe di Savoia, posso andarci anch'io. Porca, guarda che sto male, già solo a pensare. Comunque, voi i Beatles li conoscete, giusto? Ma più o meno, sì, sì. Qualcosina. Sì. Cioè. Allora, come si chiamava il batterista dei Beatles? Ringo Starr. Bene, io ho una domanda da fare. Ma Ringo Starr è un biscotto al gusto di brodo? Può essere. Ma di brodo. Questa è pubblicità occulta, occhio. E alla fine, se tu ci pensi, Ringo Starr, uno dice: che cazzo di nome c'è? Che... ci hanno giocato sul suo nome. Solidite, sì, anche se ci li prendeva i soldi sto disgraziato, hai capito? Chiamalo. Le etichette facevano già il loro lavoro. Porca, chiamalo pirla, chiamalo. Ma oltre alle due canzoni che abbiamo ascoltato, sì, ce n'è un'altra che volete farci sentire? Mercurio muore. Mercurio muore. Sì. Ragazzi, a Interferenze, Mercurio muore. Pace nel tuo dolore, nei sensi miei. Cioè, oggi ragazzi è stata una strage, tra le fate sono morte, Mercurio non sta bene, lo dobbiamo portare in ricovero, voi due che avete bisogno di un neuropsichiatra, cioè, ragazzi mi sembra un ospedale. Tutti ammalati, tra tutti ammalati, tutti ammalati. Allora, sentite un po', ma al di fuori del vostro circuito musicale, quando magari provate, avete delle canzoni che fate così da sforo, giusto per divertirvi? Ma in realtà ogni tanto si fa qualche cover, così After Hour, Verdena, Tre Allegri Ragazzi Morti, okay. Per rimanere, giusto per rimanere quei nomi. Però vabbè, le nostre influenze sono svariate, non è che c'è proprio un genere che influenza. Si passa dal pop al rock all'elettronica. C'è il mio batterista che Giuseppe, che ascolta tantissima elettronica, musica rock elettronica. Quindi spaziate molto, cioè sì. Non vi date dei limiti, non siete come quelle persone che dicono no, io ascolto solo quel genere di musica. No, tranne, guarda, tranne il reggae e lo ska, io ascolto molto pop, per esempio. Cioè, so che è impopolare, però tipo Giuse Ferreri, Grignani, perché no? Cioè, Cremonini. Ma va benissimo, porca miseria. E io, a me piace ascoltare abbastanza tutto. Ma dal mio punto di vista è meglio. Sì. Perché hai una visione generale di come può essere la musica, no? Sì. Io ti direi, ascolta anche lo ska e il reggae. So che magari non c'entra, quello proprio non esatto, c'entra non c'entrano nulla con quello che magari può essere la tua musica, però ti dà un'idea diversa, capito? Perché puoi prendere spunto per fare delle canzoni che non faresti. Ah sì, quello assolutamente. Cioè, è interessante, cioè, che non faresti. Però tu dici, ma mi viene... Però io potrei fare una canzone che non farei, quindi nel momento in cui io la faccio, cioè la potrei fare, ma poi dopo non facendola non l'ho fatta. Quindi se poi io l'ho fatta, c'ho bisogno anch'io del neuropsichiatra, ho capito, mi avete contagiato. Stavo arrivando. Mi avete contagiato. Beh ragazzi, l'intervista è finita, è stato davvero un piacere. Piacere nostro. Complimenti, perché è stata veramente una bella intervista, un'intervista... classica domanda risposta, ma qualcosa di un po' fuori dalle solite. Beh, un bel discorso. Comunque fa davvero piacere. Ragazzi, voi siete venuti in un posto in cui non c'è niente che non è fuori. Cioè, quindi è proprio, c'è una vecchia frase bellissima. Adesso non mi ricordo chi la disse, comunque diceva: chi vive senza follie non è sano quanto crede. Questa la dice lunga. Bene, sì, certo. Questa la dice lunga. Quali sono i vostri contatti per i nostri ascoltatori? Allora, vabbè, MySpace, anche se non giusto per sentire qualche pezzo. www.myspace.com/lefatesonomorte. Su Facebook, se cercate Le Fate Sono Morte, ci trovate in varie pagine, varie profili, okay. Gruppi. Poi su YouTube sarebbe bello se deste un'occhiata. Sempre Le Fate Sono Morte, e ci sono su un po' di live i nostri due video, quelli ufficiali. Ufficiali, e non so altro, credo sia tutto. Sì, basta. Andrea, Federico, grazie mille, io vi ringrazio. Grazie. Con noi oggi ci sono state Le Fate Sono Morte, alla prossima. Ascolta anche tu Radio Tassello con il programma Interferenze con Lele e Diego. Saluto speciale da Le Fate Sono Morte e dal maiale. Bella! Maiale. Oh Nicola! Hai visto il maiale di Brimcats che l'ho perso?